c'hai nella gola? Ah? Cosa c'hai nella gola? Nulla, perché? Gola, gola, gola, gola. Ho detto ola, non gola, gola, gola. Ola hai detto. E beh, Antonio. Ciao, fra, salutoni. E capo. Io sono sempre qua, non c'è mai un cavolo che... Ah, stamattina ero con Pinocchetto. Stefano gli ha programmato i portatili. Capito? Stavamo provando, facendo la prova, adesso se ne è andato via a Budusò, quindi per caccia. Solo che è stato un casino, perché cazzo il file bisogna programmarlo a mano, ragazzi, bisogna mettere le frequenze a mano. Capo, Pinocchetto, il moro, che aspettare, a queste zone era tanto tempo che non veniva, Infatti, no, è venuto perché gli ho telefonato, ho detto guarda che ti ho provato, sono pronti, se li ha fatti, ho detto Stefano. È venuto e se l'ha provato via, poi ho trovato la cosa stasera, stamattina, al bar, già le lune sole, e voleva in pratica sapere se c'era qualche ricevitore per ricevere in digitale. Ecco, no, io stamattina non c'ero, ero fuori di zona. E sono rientrato poco fa, ma stasera sono qua, non lo so sino a quanto, però forse sino alle 6:30, 7 ci sono. E vabbè, non fare problema, io già sono qua a casa intanto, non devo andare a nessun posto stasera, anzi l'unica cosa è salire sopra il tetto a sistemarmi il cavo della cosa. Italiano appena perché lo conduce, evidentemente è filtrata acqua e non riesco a far girare il motore, capito, della direttiva. Ma non è che si è bruciato? No, era un po' il tempo fermo, capito, i cavi sono fuori, li ho raffrati e sono marrò. Provo un po' di spray, un po' di zitto e farlo girare, glielo bambagheggio dentro. So che quello è il limite, non è problema, no? Cioè non è il motore in pratica che qual è? Buttaci tutto. Era un motore di parabola, capito, da telesystem. Vabbè, ma se non gira c'è qualche problema. Oppure lo apri e guardi a vedere cosa c'ha. Se poi è a secco gli metti un po' di grasso dentro, quello grasso bianco. Buttaci tutto. Bello è quello, hai girato anche bene. Era un po' di tempo che non lo stavo usando, capito? E questo è il cavo più che altro, devo cambiare il cavetto, devo mettere un cavo di quelli giallo-verde così andanti, marron di colore, hai capito? Adesso poi scendo in garage, prendo il cavo quello vero e proprio e glielo metto nuovo. Ma quello non è un cavo un filo a due cavi, a due fili? No. Più che altro glielo messo a due fili, però ne montava a quattro. Va agganciato direttamente al ricevitore satellitare, capito? E va in automatico. Va collegato uno di quei ricevitori che vendono da Bricco, vai me, che ci ha riuscito dei cavi. E lui va in automatico da solo. Ho capito. Allora dovresti fare casino. Non è un casino. Cavi a quattro file se ne trovano da tutte le parti. Se ne trovano. Però potresti metterlo a posto, allora dai, tranquillo. Poi c'è poco da mettere a posto, non c'è un control box originale della telesystem, capito? Ci vuole il suo control box. Se ha avuto il suo control box sarebbe stata una fesseria. Se non me l'aveva regalato il Prospero un anno prima di morire, capito? Me l'aveva regalato due, uno l'ha dato a Adriano, l'altro me lo sono tenuto io, ho fatto male. Quando stavo buttando dei cassoni stavano pigliando le 5-6 di quelli. La verità, a me non me l'avevi modificati e avevo usato, perché sono buoni, diciamo una buona meccanica, capito? E quindi sono buoni per quel motivo lì. Sopportano una parabola da 1,20 m, figurati, se lo vanno bene per una direttiva. Ma scusa, a fare il controbox ci vuole una cavolata. Cosa ci vuole a fare un controbox? Sono due tasse, uno di destra e uno di sinistra. Già lo so, devo farlo, che non ho avuto tempo di fare nulla, capito? L'altra volta lasciato così com'è, quindi lo faccio, non faccio altro che invertire i fili dall'alimentatore, lo faccio prima. Buttaci tutto. Via Giuseppe, mi, la buon'anima. Prosci, come cazzo state? Come non essere così veloce stamattina? Grazie stasera. Franconino, buonasera. Caldo ormai. Sì, molto. Sta bene qua. Sto dicendo, come mai sei così veloce stasera? C'hai anche il segnale. Le esperienze. Ho fatto una modifica e dunque vedi come sta risultando. Cambio. Ai. Antonello, attrezzati perché questo ti sta fregando. Ha fatto una modifica alla canna. Alla canna? Sì. Lo commento. No, dire che lui c'ha la canna troppo fine, dunque ci vuole una supposta di carne. No, c'è la salsiccia per questo. E c'ho anche mezzo una forma di ricotta, quindi a voi di roba. Polpo, ma ho detto una notizia stamattina che hanno iniziato a fare quella cosa là, me lo sai. No, io non ho avuto niente, non ho visto nulla su Facebook, quindi. Secondo me non hanno dato niente, insomma avrebbero detto, già lo sai, perché l'altra volta passa su Facebook quella storia lì, quindi non penso avrebbero dato già i soldi da oggi, no? No, l'ultima opera è li stanno facendo già, anzi, dalle cose, di fronte al tribunale, il caso che c'è lì, già preparato. Ah, per tutti di cittadinanza, c'è bisogno di arrivare ai Mazzini, a me me lo fanno direttamente fare il coso, me lo fa la chiesa che c'è qui vicino, c'è tutta la documentazione, te l'ho anche letto, quindi appena sarò loro, mi telefonavano a casa e mi compilano i fogli e tutto li spedisco direttamente a loro. Giuseppe! A me me l'ha detto stamattina che l'ha fatto, me l'ha fatto vedere. E c'è l'appuntamento per lunedì. Giuseppe! Sì, mi fra. Ma guarda, io non è per farmi i cavoli tuoi, no? Niente. Ma ti sei informato bene quello di tua cittadinanza com'è? A me me l'hanno detto stamattina, dice vai al caso che dice che via Mazzini di fronte al tribunale e ti dirà a prendere l'appuntamento, poi ti chiameranno e ti dicono tutto quello che ci vuole. Lo so, secondo quanto prendi tu adesso, ti stanno dando adesso, ma quello non cambia, vai tranquillo che non cambierà e ti tolgono anche quello che c'hai per darti quello là. Il comune ti prende quando vuole e ti fa lavorare a conto loro. Lo so, è quello che io sto aspettando. Sto aspettando quello, che il comune ci decida a fare, diciamo, le domande e che ci prendano a lavorare, hai capito? Forse quello lì, non è forse lì. Sì, d'accordo, però se tu quei soldi li prendi già senza andare da nessuna parte, è meglio prendere questi che quello di cittadinanza, perché quello di cittadinanza il comune ti sfrutta con gli stessi soldi, ti fa fare ore, ti fa fare, tanto per ottenerti a spasso. Vabbè, sempre come ha detto Di Maio, che io devo garantire 8 ore alla mia comune di residenza, dunque io devo fare 8 ore, dunque più di quello non ne posso fare, e poi i soldi sono sempre gli stessi. Sì, d'accordo che tu devi fare le 8 ore, devi fare quello, però ti devono garantire anche un lavoro fisso, ti devono garantire fisso, diciamo non fisso, perché fisso oggi non ce n'è nessuno, però ti devono garantire un lavoro non da 500 euro, 600 euro, ma almeno di vivere dignitosamente, di almeno 1.200, 1.300. quello che io sto sperando, io quello che io vorrei che mi prendessero fisso, capito? Perché poi una volta che sei fisso lo stipendio aumenta, capito? Poi le 780 euro non mi frega niente, io ho il mio stipendio, mi faccio le 8 ore e sono un signore, capito? Vado tutti i giorni a lavorare, dal lunedì al venerdì, sabato, domenica, se non sei reperibile ti chiamano, perché capita anche quello, e te le fai e ti ritira anche 1.000-1.200 euro, a volte arrivi anche a 1.300, capito? Capo, per me ci dovresti arrivare 1.300 normale, facendo le 8 ore normali settimanali ci dovresti arrivare, però siccome il comune sono bastardi che si scaricano facilmente di queste cose, si scaricano, è una bastardata. Vabbè, vedi tu quello che fai. E adesso vediamo, adesso tanto mi devo incontrare domani, cioè ce la faccio domani sera alle 4, io sono a casa di Antonelli, dunque poi da lì prendiamo, andiamo dal prete, per fare lì la domanda, è tutto di guadagnato, se no devo cercare un caso e mi prepari questa, almeno la domanda, mi faccia fare l'appuntamento e tutto quanto, capito? Capo, allora se stai andando dal prete, guarda, hai trovato la persona giusta che ti fa i miracoli. Magari. Quello, anche un prete, più di loro speriamo che la cosa vada in porto, speriamo pure. Io te lo auguro, anzi ve lo auguro di trovare. Purtroppo oggi un po' di crisi. Va bene, allora ti altro lei. Caffè, te l'hai preso, sì? Mi stavo bevendo una birra, la verità, c'è l'altro, mi è pranzato, quindi. Bene. È venuto una mattina in giro, da una parte all'altra stamattina, da fare antenne, poi consegnare portatili modificati, eccetera, eccetera, c'è passato durante la mattina, c'è passato. Figurati tu. Quindi, adesso, non ho fatto pranzato, adesso mi sto riposando. Comunque questa questione del reddito di cittadinanza non è che mi convinca molto, la verità, perché in pratica 100 euro puoi spendere e il resto non puoi toccare nulla, cioè devi andare al supermercato, bisogna vedere quale supermercato puoi andare, se è a Città Mercato, se devi prendere lo spin a farti la spesa, hai capito? Quindi altri soldi non te verranno, a un certo punto non conviene per niente, conviene più avere i soldi subito che avere quei 780 euro, che poi quelli passano in pratica lo fatto dal comune, il comune poi ti fa lavorare, eccetera, eccetera. Il discorso è quello. Poi si vedrà cosa diavolo ci sarà sotto. Prima di fare una cosa del genere, voglio controllare bene io. Guarda Antone, se poi tu conosci qualcuno, i soldi ce li hai anticipati, perché uno, per dire anche un tuo parente, un tuo cugino, una sorella che va a farsi la spesa, va a farsi, paghi tu e lei ti dai contanti, cioè i soldi sempre li recuperi. Vabbè, sono sempre per 18 mesi sono, poi stai un mese fermo, non fai nulla, poi ci sono altri 18 mesi. Il discorso è quello, siccome io ho fatto la domanda del RSI e ne prendo 400 al mese ed è per 18 mesi, quindi a un certo punto a me non me ne porti nulla. Ci sono dei contanti, ne ho la metà, però almeno ce li ho ogni mese, capito? Tutto lì, non è che devo andare a chiedere a un amico, scusa, guarda, fatti la spesa, e lui dice, a me non me ne frega niente a un certo punto. Perché in pratica, cioè, io mi posso comprare, quello si può comprare i casi suoi e anche non ti dice niente. Quindi a me andare a chiedere così non mi sta bene. Già ho avuto esperienza una volta, sai cosa ho dovuto fare con quei soldi che lavorano in comune? Andare in farmacia a prendermi le medicine, più che altro, perché il bancomat funzionava esclusivamente solo quando c'erano i prezzi maggiorati. Quando c'erano gli sconti il bancomat non funzionava mai. E quindi succederà la stessa cosa anche a questo bancomat qui, sono sicuro al 100%. Il cappello, non lo so, ma io non ho mai usufruito di queste cose, non sono mai entrato in merito a queste cose qua. E forse è meglio perché ho avuto sempre il lavoro. Non mi è mai mancato il lavoro, di la verità. E quando mi è entrato in mano me lo sono tenuto conto. E ho visto che mi hanno tenuto, vuol dire che me lo meritavo. Io l'unica cosa che voglio fare è quando mi chiameranno il tutto, vi dico ascolti, a me di quei soldi non mi rimbate proprio niente. A me mi viene il lavoro, mi faccia lavorare 18 mesi come birello, faccia quello che gli pare, gli piace, io se 180 anni non mi voglio così. Perché c'è una famiglia da campare e io fumo, dico, mia moglie fuma, quindi a un certo punto devo andare a spazzare e dare il culo, non ho capito, dico, quindi. E addirittura c'è gente che c'è la macchina, cosa, secondo te cosa diavolo fa? Fa la casina e basta, non fa l'altro, cioè 100 euro cosa fai? Ti pigli 100 euro di benzina e se devi andare per dire che ti trovano un lavoro a 100 km, ma stai scherzando, come la paghi la benzina? Col banco ma te la paghi, a parte non puoi manco pagarla, quindi è una presa per il culo per il momento, adesso vedremo come la metteranno. Hai capito? Perché prima si trovava un lavoro per 100 km, poi di più 250, quindi o vai in pullman a lavorare due sole cose e devi pigliare i biglietti, tu vedere se funziona il banco, ma te puoi comprare i biglietti, questo non lo so, è tutto da vedere, prima bisogna chiedere come funziona, dopodiché o si rifiuta o si manda a fanculo quella storia lì, tanto solamente per 18 mesi, la prima volta 18 mesi dall'altra. Poi penso che non lo rinnovino per niente, a meno che in Sardegna non aprono qualche ditta, che in pratica i soldi diranno una ditta e tu bello tranquillo lavori, lo Stato da 780 euro al datore di lavoro e quello di aggiungere il resto, allora ti spiego con tanto ogni mese. Non lo so come funziona, però so che mi sembra che mi hanno detto, cioè mi hanno detto, ho sentito più che altro, che 200 euro te li danno liquidi, che li puoi usare. No, sono 100, non sono 200, sono 100 euro. 100 euro, io ho capito 200, l'ho sentito. No, sono 100 euro liquidi, il resto puoi comprare solamente roba da mangiare, pagare le bollette e basta, non puoi fare altro. Quindi, finché non ti trovano lavoro, hai capito? E poi lavoro, sa se non ce n'è, e se l'ha messo in testa anche Salvini, quando è venuto qui, dice che il cazzo lo dice, il tuo cittadinanza di Sardegna, non esiste qui bisogna dare soldi in contanti, ha detto, non c'è manco la fabbrica, non c'è più niente, stanno licenziando, che cazzo di cittadinanza diamo a questi poveracci, lavoro, e dove lavorano? A fare i bagnanti. Le pecore non vanno bene, le mucche a 60, quindi cosa dobbiamo? Andiamo a dare il culo e facciamo prima. L'unico problema è metterci una parrucca bionda e una menigone, andare dal motorice e fare. E quello che pensavo io. Se ne hai qualcuno tu, parrucca bionda, stai tranquillo che posso scendere anche domenica a prendermela, a meno. No, la menigonna me la faccio procurare la mia nipote e poi vediamo cosa è tacchi a quello. Ascolta, tu fai come fanno gli indiani. Gli indiani quando vedono una bella donna con una bella chioma gli fanno lo scarpo e c'è la parrucca. La parrucca ce l'ho io, una lera, mi. Già te la do, Giuseppe. Quella mi serve per carnevale. Carnevale è un tubo, te la do. Scusa. E quello ti vesto la Befana allora? Gli abbassa che cazzo il cappello tuo, cazzo che hai rivestito la Befana, stai zitto, cazzo che tu cazzo sei peggio di un polpo, cazzo. Guarda che c'ho il cappello originale di sombrero, per esattezza, anzi del sombrero, originale, proprio originale. E se vai a controllare il sombrero quanto costa, non lo so io. Quindi mi metto quel sombrero, mi compro i vestiti da messicano e esco da messicano. E ti manca solo il cavallo, cazzo, ma lo vuoi il puledro? Un asinello lo vuoi? Pedro, lo vuoi? No, il cavallo lo fai tu, ti metti a coso, a quattro zampe, mi siedo sopra e andiamo a coso. Capito, ci presentiamo, io ho dato i soldi, 100 euro ognuno. Sicuro, hai capito fra, vedi amiche che faccio, che la vogliono mettere di dietro, senza vasellina. Dai, non è così, dai. A parte che se ti mette la vasellina scivola troppo e allora meglio che agganci un po'. Per carità. Ruspante è migliore. Ma come accetti in PMR? Fra. E dove devo essere? Tu no. Io se era solo la tabella andavo sulla 27, ma ci sei tu che non hai 27 e rimaniamo qua. Vabbè, ma nel telefono andava meglio. Lascia perdere, che non mi voglio rovinare il telefono. Va bene così. Ah, ho capito. Se continuo così mi rovino il telefonino. Lo sto caricando troppo spesso, lo sto caricando. Oh, basta, finito. Beh, meglio, tanto i gruppi, dove ci sono i gruppi non mi piace. Solo per vedere quello lì, ma che cazzo me ne frega. Così, Antone. C'erano tutti con l'applicazione di Cucco, c'erano anche dei maturi, quindi a un certo punto. Il discorso è, me l'ha detto stamattina a me, cosa bisogna fare per non far caricare la batteria. Ho detto vai, ho detto l'acqua e sapore, c'è la batteria quella che vendono, ho detto 90. Gli ho detto, quando c'è la batteria carica, in pratica da una passa all'altra, ed è così non ti imballi la batteria, gli ho detto. E ti dura tutta la sera, perché mio fratello ce l'ha, lui usa YouTube, si ascolta la musica, grazie a Dio la batteria funziona sempre. E l'unica cosa da fare. Ehi, va bene, Antonè, però non è che... Non lo puoi tenere sempre sotto carica quello lì, sempre attaccato, per non consumare la batteria. Io lo so che la batteria, se la metto sotto carica, lui rimane sempre lì, rimane, non si scarica, però è sempre attaccata alla corrente. Sì, vabbè, quello che c'è tu sì, ma io con quella batteria lì, in pratica, di riserva, non c'è bisogno di attaccare nessuna corrente, ma è... capito, ce l'ho sempre di riserva e basta. Quando vedo che la batteria si scarica per la pena, ci metto quella, dura 6-8 ore, tranquilla. Poi vai e carichi, poi una, poi l'altra, tutti e due, con il caricatore, hai capito? Come fa mio fratello, tale uguale, mio fratello fa così. Perché lui si ascolta la musica tutti i giorni, mattina e sera YouTube, e tu figurati. E la questione dei bambini che ci sono adesso, come potete scaricare i videogiochi, giocare con i videogiochi, non sai come si scarica la batteria dopo un'ora, addirittura il disco diventa bollente. Capo, no, ce l'ho anch'io, Antonè, quella lì ce l'ho anch'io, la usavo, allora io quando lavoravo sul carrello elevatore, c'avevo un coso col Bluetooth, radio, poi faceva del radio, Bluetooth, telefonino, potevo anche fare le chiamate col telefonino, tutto potevo fare, e alimentavo quella lì, aumentavo, e mi durava 12-13 ore, mi durava quella lì, quella mia, la mia grossa, e lo so quella lì, però alla fine stai sfruttando sempre anche la batteria del telefono, cioè la batteria di quello che tu usi, capito? Ragazzi, stai sfruttando, perché quella non si scarica, perché te la tiene in carica la batteria, l'altra batteria, però la stai sfruttando lo stesso. Sì, vabbè, non è che la sfrutti molto, perché se tu pensi, quella piccolina, mi sembra che sono 700 mAh, quindi a voglia che dura, per dire, ma si può fare. Bisogna procurare una, quello ti posso dire, che sarebbe molto meglio, una falsa batteria, una di quelle batterie originali del telefono, metti di tre fili, fagli uscire fuori, in pratica, e collegali a un stabilizzatore di tensione, lo metti nell'alimentatore e non fai altro che alimentarlo, anzi, l'alimentatore, cioè, forse non c'è neanche bisogno, perché... se mi sbaglio quello cinese parte da tre volte, quindi a un certo punto gli mette i due fili collegati direttamente alla questa falsa batteria e si andenti. E si può usare tranquillamente il telefonino da casa come cosa. È tutto da inventare, capito? Sì, ma se per quello a tre volte posso scendere anche con l'alimentatore, quello da 30 ampere, quello da 40, posso scendere lo stesso, sino a 3 volte, perché è tutto regolabile. È regolabile da 0 a 40. Questo è da 0 a 30. E bisogna prendere quelle batterie originali di questi telefoni, fargli la modifica e fargli il collegamento diretto, senza in pratica avere il gavetto, cioè il dispositivo centrale che in pratica ti dà come è un sensore ti dice come la batteria è carica, capito? Tutto lì, colleghi più e meno se andendi, hai capito? Lo dico, il fatto che bisogna costruirlo, una cosa del genere sarebbe bello, detto, ma aspettiamo adesso cosa fa la Midland, perché quando sembra la Midland sta facendo il telefono già pronto da ricaricare direttamente con l'alimentatore esterno, o da pure da alimentarlo con l'alimentatore esterno, tu lo metti a casa, tu lo metti in camion, capito, e sei tranquillo. Però costa 600 euro questo con il microfono Bluetooth. C'è il Marco io, cosa io che va per lì? Per carità, riprendi Giuseppe, riprendi, ma Giuseppe è parito, non si è parlato, non è che c'è caduto in bagno? Penso di no, magari avevano chiamato i carabinieri di Andara a cavare all'asino a farselo dietro, dice è giunta l'ora, vieni amico mio, vieni, ti facciamo la canna. Non rispondi, vuol dire che si è allontanato. Sta pensando al reddito di cittadinanza. È un casino con il reddito di cittadinanza, bisogna capire come funziona, perché a un certo punto sarebbe inutile farlo, hai capito? Il discorso è quello lì. Adesso abbiamo noi questo RAIS, ma se lui c'è il RAIS, c'è il RAIS. E nei tirami, mi sembra, sono dei colomani, sono intorno ai 300-400 euro al mese, però ce l'hai con tanti, hai capito? Se lui fa il reddito di cittadinanza, siccome all'ufficio di collocamento posti di lavoro non ce ne sono, quindi finiti 18 mesi sarà un casino, il discorso è questo. Adesso vediamo un po' Salvini cosa diavolo vuole fare in Sardegna. Due sono le cose, o cerca persone per poter aprire dei cosa ti posso dire, finanziamenti e apre qualche ditta per poter assumere, e se no siamo fregati. Il discorso in pratica il 780 euro al datore di lavoro, poi il datore di lavoro fa altro che aggiungere 200 euro in più e arriva a 900 e ti fai il tuo mese che ti tocca, capito, fino a 18 mesi. Però c'è sempre l'incognita che nasceranno queste ditte strane, capito, tipo cooperative, cose del genere, che nascono per 18 mesi e poi prendono, cazzo, e si mangiano tutto. Così è. Se entra in mano le cooperative sono cavoli, non voglio andare. Perché le cooperative sono ladre. Quelle poi alla fine ti dichiarano fallimento e sono futiti gli operai, perché ti portano via, ti fanno lavorare il primo mese, non te lo danno, il secondo mese ti danno un acconto, il terzo mese non ti danno un cazzo, all'altro mese ancora, minimo lavori 3-4 mesi e ti bruciano quei 3-4 mesi, poi chiudono. E come quello che ha aperto Renzi per distribuire i volantini, Renzi faceva quello, lo sai, c'avevano in mano tutta l'Italia per distribuire volantini, hai capito? Infatti si è mangiato, lui di nasa ha mangiato, infatti l'ha arrecciato, speriamo lo mettano in galera, così me ne imparano per le balle il figlio, capito? Però sta zitto, lo fa 2W e si nasconde. Non hai visto cosa ho detto? Se mio padre ha sbagliato che paghi al doppio. Ma che cazzo si dice? Un bambinone. È un bambino quello. Per me è minorato di cervello quello. Sì, bambino. Guarda che ha fatto il corso per poter parlare, già lo sai. Per poter in pratica. Come ha fatto Berlusconi? Se uno non sa parlare, sta tranquillo che non lo votano, quindi a un certo punto per prendere più il culo italiano bisogna fare il corso, lo sai, no? Lui ha pagato il corso e per poter parlare in televisione, poter parlare agli altri, a dire solo coglionate e basta, finché non è creduto più nessuno. A un certo punto l'hanno abbandonato anche gli amici suoi di partito, già l'hai visto. Troppo bello, sembrava Berlusconi di secondo, capito? Le illusioni. Lì sta Berlusconi quando è andata la barba russo, dice io non posso soffrire, dice adesso. Prima dice mi votavano tutti, adesso uno su 20 mi vota. E se ne accorta anche lui che ormai non piglia più di culo più nessuno con la sua pappardella. Infatti ha detto che noi, che gli italiani, siamo usciti fuori di testa. Hai capito? Perché avevamo votato a questi qua. Siamo usciti fuori di testa. Lui dice che spera che questo governo chiuda domani o dopodomani. Ma secondo te a lui in Europa passa, non passa per niente. Passa la Meloni, passa che ha fatto qualche cosa, ma qualcosa di bello. Passa Salvini e passa la Meloni. Lui proprio andrà a sparire, a fare la fine dei fini, in Italia è uguale, te lo dico io, perché lui in Europa sta tranquillo, non c'entra, nel Partito Popolare, però va manco il quorum, te lo dico io, prende se ritira, te lo dico, vedrai la scena tu, come l'amico suo, quello che c'è su in, hai capito? Tale uguale. È l'uomo che è entrato in politica per salvare il fratello, cazzo. È entrato. Per interessi è entrato, interessi di famiglia, cazzo. Te ne immagini? Sì, deve ringraziare la CLAP, sì, deve ringraziare lui. Hai capito? Se no è stato morto, non avrebbe avuto nella fine invece. Tanto meno il fratello avrebbe fatto Milano 2. Perché Milano 2 ha fatto tutto Paolo Berlusconi, capito? Poi la brutta figura che ha fatto è quella della Maddalena, perché ha fatto costruire tutta quella cagata che ha costruito per la Macegaglia. Poi invece ha preso e ha cambiato, hai capito? Dice no, io il G8 non lo facciamo più qui, la Maddalena lo facciamo nella terra mortata, hai capito? Ma vai a fanculo, a un certo punto non posso neanche più vedere neanche la Maddalena. L'hanno capito ormai che non piglia più di culo nessuno. Gli italiani non sono più scemi, ce l'ha capito, meno male. Non passa manco il 10%, la Meloni che sta salendo adesso. Quindi lui farà la fine dei fini. Il prossimo anno lui vedrà che se ne andrà bello in pensione, penserà ai putti. Forza Italia sparirà, perché sparirà Forza Italia del tutto, come faranno un altro partito, te lo dico io. Ci sarà sempre lui in mezzo, ci sarà, perché lui c'ha i soldi, capito? Non è un piccolo pallino qualsiasi, lui è nato già ricco, figurati se si spaventa. Sì, ha pagato i debiti dell'altro, lui già lo sai, già che Forza Italia c'ha tanti di quei debiti, se li ha pagati lui, mica li hanno pagati gli amici suoi e tutti i soldi che ci hanno ritirato. A lui i debiti. Sì. Il presidente che ha fatto il partito è proprio lui, e purtroppo lui era anche il maggiore finanziario del partito. E infatti sono trombato gli amici sui stessi, non solo l'altro. Non so quanto si abbia pagato lui di debiti che ha lasciato Forza Italia, li ha pagati tutti lui. Gli altri non hanno pagato niente, nessuno, chi è andato da una parte, chi è andato dall'altra, capito? L'hanno lasciato solo come un cane, quando l'avevano arrestato, te ricordi? E quindi se ne è mandato a cagare, adesso vuole rifornare il partito, non ci riesce, non ci riesce più ormai. Ti ricordi a Pili, Pili l'ha preso per il culo, a quell'altra pertanto, tutti quelli che erano con lui qui in Sardegna, l'unico che è rimasto sono quei due imbecilli di Ulber, basta. Infatti per Forza Italia non esiste, è solo Rubbia, perché ci sono solamente due imbecilli che sono rimasti con lui, evidentemente è dalla tangente. Vabbè, vuol dire che non si sono voluti spostare. Ma è già finito il PD, anche il PD è già a terra, già fregato. Non se ne sono accorti, ma sono quasi morti. Sì, il PD è lo stesso, ormai il PD non esiste più, è già morto, il PD è sparito, capito? Sai cos'è? Che in pratica è diventato un troiaio anche di la rete, si bisticciano tra loro, chi vuole fare il segretario, chi vuole fare il corso, è logico che ognuno dice, a un certo punto cosa che me frega a me di essere lì, ma va a far culo, hai capito? Va per la sua strada, cambia casacca e va dove, come si dice, dove ci sono i soldi. Ecco, quello che mi fa incavolare è che ancora non gli hanno abbassato i soldi, non gli hanno abbassato, non gli hanno tolto niente, quello che ti fa incavolare. E già glielo toglieranno, non ti preoccupare, non so quello dei sindacalisti. Speriamo che tolgano la pensione quella loro ai sindacalisti, così almeno la Cassi Blandini, prima la FIOM, tutto tratto la CGL, hai capito? Promosso l'hanno, un altro mi mangia cosa, mangia merda, perché l'Italia alla CGL non gli deve pagare le tessere, non gli deve pagare, non gli devono più pagare tessere, vedrai che si muovono, perché quella pezzo di merda della Camusso se n'è andata con 33.000 euro di pensione al mese, alla faccia nostra. Ha preso per i culo italiani la Camusso, sì, esatto. Stata in pensione prima, si è sbattuto con lui, c'è una cazzo me la fatti a me le fanno, a parte che ci ha messo, cioè, ricordati sempre, quando entra un sindacalista così si mette tutti i parenti a posto dei posti giusti, cosa fa? In pratica, questi capi sono in pratica figli nipoti di sindacalisti, hai capito cos'è il discorso? E quindi campano dall'Inps. Ci sono anche volontariati dei sindacalisti, vai tranquillo, ci sono anche volontariati pensionati che fanno volontariati, che quelli che fanno volontariato sono pezzi di merda, perché non lo dovrebbero fare, perché e non pagare tessere nessuno, vedrai cosa ne sarebbe uscito fuori con questi pezzi di merda. Guarda, conviene essere figli, nipoti di sindacalista, di partito. Il discorso è quello, almeno il lavoro ce l'hai subito, evidentemente. Fanno una telefonata, a me che mi serve un posto di lavoro per mio nipote. Io in mattina prima ce lo infilano lì, anche se non capisce un cazzo lì. Hai capito? Ce lo infilano dentro. E così è sempre successo. Ma se ti sto parlando di 5-6 anni fa, hanno mandato incossato un impiegato a noi, hanno mandato incossato, era figlio di sindacalista proprio, di un sindacalista noto a Sassari, hanno mandato a fare l'impiegato e non sapeva manco accendere un computer, era più tonto di un cavolo e si era ricuto pure come anche un tronzo. Era male, era ora, cosa bisogna fare? Cioè se uno vuole un lavoro se lo deve sudare, non è che entra così, al limite poteva fare il birello, per dire, non fai un cazzo la mattina alla sera, ti grazie coglioni e ti fai il birello, boh, basta. E anche a fare il birello lo devi saper fare, che non è facile, ci vuole carattere a farlo. No, io ormai già l'ho fatto il birello, l'ho fatto per un anno, l'ho fatto grazie a Dio. Ho lavorato lì a fianco ai pompieri, hai capito? Quindi figurati tu, l'operaio specializzato, che allora lì a fianco ai pompieri c'era una cosa dell'università, e poi si è spostata lì a Monserrato, ho capito. Poi da lì mi hanno chiamato di, in pratica l'ultimo mese a fare come il bidello, tale uguale, hai capito? Dice siediti qua, se ti chiedono qualche cosa, gli poti le schede, gli poti quello che gli serve, eccetera, eccetera. E l'ho fatto, l'ultimo mese l'ho fatto, grazie a Dio. Ecco, ma voglio dire, deve essere bello, deve essere farlo, però, e come mai non hai continuato, ma eri a contratto? 6 mesi l'ho fatto, dopodiché purtroppo la scadenza scadeva lì e 10 giorni prima, hai capito, è salito il contratto e mi hanno mandato a casa. Poi ti parlo negli 83 o 84, quindi figurati tu. Capo, e come ho fatto io allora lì al comune di Sassari, sono entrato nella Mondezza, ne ho fatto in tutto 9 mesi, ne ho fatto, io era contratto di 3 mesi. Mi hanno confermato 3 mesi, ma 3 mesi, e 3 volte mi hanno confermato, altre 2 volte da quando sono entrato me l'hanno confermato altre 2 volte, sono 3 mesi, e ma 3 mesi, e 3 mesi alla volta sono 9 mesi, e poi mi hanno mandato a casa e non mi hanno più ripreso, perché quando ho rifatto la domanda hanno detto che c'era altra gente davanti, c'era, che io li avevo già fatti i mesi miei. Lo so, se invece superavi un anno, mi sembra, non mi ricordo quanto, per contratto, ti dovevo prendere fisso, capito? Il discorso è quello lì. Sì, ma il problema mi hanno mandato via prima, non me li hanno fatto fare un anno, perché lo sapevo anch'io quello. E purtroppo, pazienza. Mi sarebbe piaciuto rimanere lì, che era bello, era, a me piaceva. Ah, lì già era bello, sì, vabbè, c'era tutto la palitta, c'era la Geveso adesso, lì dove c'è la Mondezza, come si chiama? Al monte, capito? Quindi ormai c'era tutto la Geveso, c'era in mano. Mi sembra che, se non mi ricordo male, dovrebbero assumere altre persone, ma non so quando, hai capito? Vabbè, pazienza. Capo, no, quando c'ero io non ce n'erano cooperative, era il comune, direttamente dal comune eravamo assunti. Beh, adesso che ci sono le votazioni, non conosci qualcuno per farti entrare? Ui, per carità, guarda, sai quante volte ho chiesto io ai politici? Uno mi ha mandato addirittura un giorno con un biglietto, dice vai con questo qui, ti mando da questo, parla con lui, eccetera, eccetera. Lo sai cosa mi ha detto? Quella risposta, dice io non posso fare niente, capito, mi ha detto. Avanti, va a fanculo, ti ho detto, girare le balle, non ci vengo più, girati dei coglioni. Devi essere proprio amico o parente o amico di un politico. Il discorso è quello lì. Se no non entri, manco voto. O se no amico di sindacalista. Capito? Capo. È un casino, Oh, perché a questa gente è meglio dargli, se c'è il posto di lavoro, è meglio darlo al comune, cioè al comune, anche il comune ci può fare qualcosa con le cooperative, perché il comune gli dice tu prendi, mi devi prendere questa persona, e quella cooperativa te la prende, perché lui è la cooperativa che lavora per il comune, capito? Ce lo so, c'è tutto in mano a Geseno, capito? Io conosco una persona che viene qua al bar la sera, che intanto mi offre da bere una vigilanza, figurati tu, e ci sono 3 persone che sono state assunte dal comune di Sassari per ricadatrici, capito? L'unica cosa posso chiedere a lì, al limite, se può fare qualche cosa, ma hai capito? cosa gli potrebbe dire? Non so cosa dirti a un certo punto. Meno che non sia lei a dirmelo, anche lei se per dire sta lavorando, dice, no, le avrei detto no, sto lavorando, guarda. Dice, aspetta che mi metto io l'impegno per dire, ti cerco un posto di lavoro al limite entri le calatezze e va a far culo, mi faccio il mio lavoro. Tutto lì, io la vedo ogni sera a me questa qui, ieri sera mi stavo offrendo da bere, figurati. Adesso se la vedo glielo chiedo, se conosce qualcuno, dammelo entrare via a Calatrizzi, se entra a Calatrizzi se la piglia in culo. Mi faccio il mio corso che devo fare e almeno sono tranquillo, anche se sono 6 mesi, quelli che sono, basta entrare, lì dove c'è la TP. Capo. No, i corsi sono relativi. Non sono corsi proprio che devi studiare, devi fare, sì. A qualche domandina devi rispondere quando ti fanno la domanda al corso, ma sono 8, 16 e 16 ore, 15-16 ore di corso dovresti fare all'anno, questo è, all'anno, che ti spiegano tutto come funziona, i pericoli, tutto quello che c'è da sapere, capito? Ti dico, tutte le cose della sicurezza, tutto quanto. E beh, prima di mandarmi in casa in giro per raccogliere le macchine, me lo fanno fare lento, no? La questione è quella, prendo una macchina vecchia, dice questa macchina prendile, agganciala, per dire come si chiama, allora, anche se non c'è la patente, per dire agganciala e poi già ci penso io, per dire, mi farà vedere come funziona, come non funziona, eccetera, eccetera. Non è che ti manda così allo sbaraglio, nessuno è nato imparato. Adesso stasera se la vedo glielo chiedo. Vediamo cosa mi risponde, non mi costa niente chiedere. Poi c'è una cosa, Calatrezza il comune non ne ha, mi sembra. Mi sembra che c'è una società a parte che lavora per il comune. No, è l'ATP. L'ATP l'ha formata il comune. C'è tutto il male del comune qui, capito? Il comune di Sassari. Quindi azienda trasporti pubblici, eccetera, eccetera, sempre una partecipata a un certo punto, anche se magari socio, magari qualche altra ditta, però è sempre roba del comune, tutto lì, capito? Addirittura, cazzo, vado a bere al bar alle 7 di sera, alle 7 poi la mattina a mezzogiorno, vado lì, si bevono la birra, cosa gliene frega a loro? C'è il vigile urbano, ci sono quelli che bevono. Tutti, capito, mettono i calatrizzi nascosto dietro all'hotel, così in modo che non si veda, quindi i colleghi su non vedono niente. Quando finiscono il turno, il vigile urbano va tranquillamente a casa e tranquillo. Che cavolo lo controlla? Sì. Vabbè, calatrizzi gira per Sassari, dove trova macchine messe male e le porta via. E poi è il vigile che te lo deve dire. Perché prima gli devi fare il verbale, poi te la fa rimuovere. Ma la corrente ti è mancata. Giuseppe. E la telefono, dimmi. Ecco. Ma, dimmi. Niente. Pensavo che ti era mancata la corrente. No, era il telefono, dimmi, non si porta al telefono. Giuseppe è sparito del tutto, boh, chissà che cazzo è finito. O sei dormito? Per me sei dormito. Giuseppe. Oh Giulia, bene mela, tu la stai usando il portatile? Ok, sto usando, lui sì, lui usa il portatile, io no. Ah, tu non stai usando il portatile, ma come mai non hai segnale? Sto usando l'857, lo IAS, con la direttiva, puntata a cosa? Al monte. Ah, ecco, tu devi puntare a questa parte. Questo promotore si è bloccato, adesso dopo salgo sopra e taglio il cavolo e cerco di fare i collegamenti nuovi, lo sblocco. Perché ieri ha funzionato, cazzo, strano, ieri tutta la sera ha funzionato, a destra, a sinistra, a sinistra, a destra, 4 volte l'ho fatto girare, funzionava bene. Oggi non da gara proprio. Perché non gli hai dato il caffè? La massa caffè gli hai via. No, io, se no, come rotore mettergli due corde, due tiranti. No, è solo perché anche perché l'acqua non entra dentro, capito? Non è di quei rotori che entra l'acqua all'interno, quindi è tutta questione del cavo, capito? Evidentemente si è asciugato, magari era umido, l'umidità della notte, per il giorno che ha fatto, e quindi non conduce, capito? Perché il cavo è di colore marrone, quindi devo fargli tagliare un pezzo e cercare dove c'è il rame vero e proprio e collegarglielo. Capo, buscamene uno di quello, cazzo, di quelli. Se mi capita gli altri lo busco, non ti preoccupare. Di quei rotori del coso. Però devo comprare il controbox, l'altro del sistema, il discorso è sempre quello. Perché hai capito, è della parabola per 1,20 m. Ma non ti preoccupare, perché il controbox fa bene anche il controbox dei rotori grandi che c'hanno i radiamatori. Anche uno di quelli va bene. Io penso di sì, perché c'ha 5 agganci di cavo, a quanto mi ricordo io. C'è fine cosa da una parte, fine cosa dall'altra, poi c'è l'alimentazione a 24 volt, quindi. Capo. Ma va bene, ma anche se c'hai quattro due tasti a bottoni e gli agganci fili, uno a destra e uno a sinistra, te lo fa andare. Sì, va, vediamolo, costruisco. Uno di quei cosi alle vetta mi prendo e se la bianco a un certo punto gli collego il resto. Già c'è lo schema elettrico, l'ho conservato, meno male. Capo, tu se ti capita buscamelo un rotore di quelli, capita che lo piazzo alla mia. Se mi capita che qualcuno ce l'ha, magari è rimasto in laboratorio, uno di questi giorni ci vanno e trovo a coso al figlio di posto, se c'è uno di quei così che non ci ha buttato, me lo faccio dare, tanto lui ci aveva buttato tutto, mi pare, ricominciava il padre. Adesso vediamo. Se mi capita, magari lo trovo, per dire, da Portobello, 3-4 euro un motore del genere, cosa ne so? Non li ho mai visto io a Portobello di quelli, se no è lasciato in appigliato. Di solito si trova la Bastrana da Portobello, già lo sai, ne manco te lo aspetti. Sono da Portobello, da quella di imbecille di Napoletano. Capo. No, io già sono parecchio che non ci vado a Portobello, però lì non li ho mai visto. Se no è lasciato in appigliato, la grande. Vanno bene come motori questi, cazzo, sono un treno, sono. La mia pesa, la 12,20 che ho io pesa quasi 3,5 kg, pesami. Capo, una volta ho trovato il rotore con controbox, ho trovato lì a Portobello, ho visto che di quelli grandi però, per portare direttive radiamatoriali. Sono andato, gli ho chiesto a vedere quanto era, mi ha detto, dice, no, è già venduto, non te lo posso dare. Dice, anzi, lo devo togliere dalla... da lì. Figurati, l'ha preso al volo qualcuno. A meno che non trovi qualche levatore che siamo, questo cazzo, andi in chimica dalla moglie, e ci guardi, è stato a lei, non so, fa niente, salgo subito, mi porto via tutto io, ci faccio gli fai un prezzo e ti si bucia tutto. Quello già è vero. Vabbè, ma non penso che sia così. Questo, quando l'ho visto, cazzo, mi sono abbettiluccio e ho detto, Billu, cazzo, a venire un biglio. Sono andato, gli ho chiesto, quanto viene quello, ha guardato. No, questo è già venduto. Come mai ancora qua? Chiamato il ragazzo, toglielo da qua, che è già venduto. Basta, finito. Figurati, purtroppo capita così. A volte capitano gli affari, cazzo, i soldi non ce li hai. Il discorso è quello. Anche capita anche quello, capito. Vabbè. Poi l'altro che c'è vicino alla piazzetta, quello lì, aveva un alimentatore Kevun, aveva 25 watt, 25 ampere mi sembra, quello originale della Kevun. Cazzo, neuria 60 euro, neuria. E gli ho detto, se potevamo provare a vedere se... Ah, no, no, no, no, a me me l'hanno dato così, e così te lo devi prendere. Ah, di a picca, te l'hai raggiunto. E a me mi ha chiesto 90 euro, mi ha chiesto, vai, ho detto, che vado dai cinesi, ho detto, 30 euro mi compro, una mi ha dato, ha detto, a 50 ampere, ho detto, e te l'ho scatto 600, ho detto. Dice, allora, vai, te l'ho preso, e certo che vado lì. Ma secondo te, ho detto, qui dove sta, ho detto, a girarmi le palle con te, ho detto, no, no, no. Lascia perdere, gli ho detto, per il culo, ho detto, a me non mi pigli. Se te l'ho chiesto, a me mi serve solamente, ho detto, la custodia, basta. Poi, ho detto, c'è, tanto l'alimentatore sono sicuro che è bruciato, ho detto. Ti lascio il pezzo dell'alimentatore, ho detto, di lì sopra il tavolo, a me mi interessa, solamente la custodia, poi ci penso io, ho detto, ci metto l'alimentatore, ho detto, le cinesi dentro, c'è l'altoparlante, e sono a posto, gli ho detto. E poi non ti dà possibilità di provarlo. Ma che cazzo di venditore sì? Sa che non funziona, ecco perché non ti dà la possibilità di provarlo, non ci sono cavi, non c'è niente, capito? Sa che non funziona, quindi rimarrà lì altri 20 anni, finché non ce lo butta lui, sto succedendo quello che già lo vedi buttato in terra, vicino dove sono, dietro dove sono quei cesi, buttati, sono dei cesi, non hai visto, cesi, cosa, c'è, cioè, non fai altro che andare a raccogliere se la biglia in Napoli. Ecco. Il cavo non ne aveva, cavo d'alimentazione aveva, ma me, il giorno me l'ho portato io, me l'ho portato, il cavo. E quando gli ho detto l'agganciamo, dice non c'è il cavo, ho detto ma ce l'ho io il cavo, perché lì. Dice, ma non, dice me l'hanno dato così e così lo devi prendere. Allora avevo preso un cazzo, che se non funziona non inviso. E perché io ho controllato quando l'ho comprato. E cosa cazzo ne so che ce l'hai controllato? Allora tu mi vendi cosa che non serve un cazzo. Sapeva che era già bruciato, fregatene. Lascia perdere, non ti avrebbe detto, poi il cavo suo. Se non funziona va bene, glielo regalo, gli avrei potuto dire, capito? Tutto lì, non devi evitare quello, ha preso e ti ha detto di no. Aspetta 5 minuti, arrivo subito. C'era tanta roba c'aveva quello lì, ma non l'ha già comprato nulla, nulla, nulla, nulla. Aveva bei microfoni, aveva, uno me lo sono fatto scappare, cazzo, non l'ho preso, cazzo, poi me ne sono pentito, il Tarnet 2 è Palmare, cazzo, me ne sono pentito di quello. Tanello? Tanello? Tanello? Luca? Ciao Gio Maria. Buffo triste! E sta sola! Ciao Mari! Facendo c'è! Ho visto sì! Ah, sveglio, sveglio sono, sveglio! Bravo, bravo! Che facendo Gio Mari? Ma che facendo c'hai? Sto qui! Sveglio! Era scelto, lo cello! Meglio, ma tu messaggio ad accendere, adesso vediamo un po' se accende. Allora l'accendo. Allora io l'accendo. Aspetta, 9.30, adesso per 5. Uno di salto, uno per 5 per 5. Va bene, dai. La radio è perfetta. Dai, il moto 4, lo saldato e lì. Prova. Ah, qui a occhio. Oh, è bello. Il Roswell non è capo. Hai visto, eh? Buono, buono. Va bene, no, io ho sempre solito anche il mio suo. No, non mi interessa vedere la testa. E da piove? Sì, certo. Io la sto dando parecchi. E cosa ne fai? Nessuno, sì che sta perdendo tanto, forse non deve pagare altri compra. Uno, voi. Lo so. Ma tu chi sei lui? Gesù. Come fai a tirare? Ma infatti non è più nessuno, non c'è più nessuno. Ci siamo solo noi alla fine lì. Ma prima, qualche anno fa, c'era qualcuno, ma va, no, manca il baracchino, non c'è nessuno, e vabbè, finché c'è gente ci facciamo due chiacchiere, vabbè, ma non c'è più nessuno, tutta la mondezza. E tu mica è, cosa ne fai, non ne fai niente, una volta che lascia la parte lì, okay. Boh, chi è vuole entrare avanti? Lasciamo dello chef, vediamo. Voglio lo chef, ragazzi. Mi sembra la costo, mi. E beh. fate dolce. A vedi, la sopra, sopra, pizza. E fa capire. Bello. Ma pure per te, quando lo chiami per te. Vuoi entrare ma non hai gana di farvi da. Oh Lu, per carità, io ma non ha ni gana, non ha ni gana farvi da. Sa cosa mi mai? Che c'è? Asparagi. Sicuro che sto accendendo adesso io, chi c'è? Sto accendendo adesso, chi è che c'è che chiama? Non mi senti? Sì, la radio che c'è basso, insomma, lì. Non è colpa mia. E chi è che c'è, chi c'è, chi c'è? Mi sembra di aver sentito Luca in lontananza. Luca, buonasera a tutti quanti, quelli che sono all'ascolto anche. Avanti, Luca. Luca c'è già sentato, ma... Oh, il segnale è buono, Non lo so, non lo so se può aumentare. Tori mi stava dicendo, dice bisogna cercare sul menu. E che c'è, che parola devo cercare sul menu? Ci sono 50 parole sul menu. Qual è quella giusta? Ma poi mi metto a frugare. Poi mi metto a frugare un po' a vedere se trovo qualche parola che mi interessa. Oppure trasmettendo e ascoltando a vedere un po' se cambia da un passaggio all'altro. No, riesco a vedere questo tasto, dai. Questo è scritto volume. Questo così non l'hai... Questo Gio Marì. Non lo sa neanche lui, non lo sa neanche lui la sigla. Sì, il primo che ho avuto era una bomba, trasmetteva benissimo, solo che poi ha preso fuoco, perché era difettoso da quando è arrivato. La antenna. Adesso ho cambiato radio, ho messo il portatile, adesso come mi ascolti? Adesso è aumentata la radio. E quindi esce il portatile, collegato in antenna però. Esce il portatile. E nella modulazione parlo sempre allo stesso modo, non è che grido e ne abbasso, sempre allo stesso modo. Non avete il segnale? Il segnale se l'ha passato sì perché... tu devi pensare, da dove sono io adesso? Arrivare all'antenna ci sono 40 metri di cavo. Sì, la radio è bella. È molto poco. Capisce abbastanza bene ed è pulita, capito? Però se il portatile va bene, sì, è il portatile. Aspetta che sono... stavo fischiando. Ehi, hai Tore, non sei sentito stasera? No, no, sono... C'era Luca. Vediamo un po' se c'è ancora Luca. Ah, sto mangiando la pasta al forno. Quello deve essere che è rimasto da pranzo, qualche piatto di pasta al forno e sta divorando, lasciamolo mangiare che deve crescere ancora lui. Ehi, eccomi qua, ciao Bacchi, no Giovanni, mi sono allontanato un attimo da camera, dai, e ho lasciato il portatile sul letto. Ah, dove pensate subito al male? La pasta al forno la mangio una volta a settimana io, mica... Vabbè, ma hai capito allora, grazie alla battuta, no? Allora no, c'è che sta una volta a settimana, una volta ogni tanto, così non sempre. Ah, io la mangio ogni giorno, guarda cosa piace, certo, la lucrisia. Guarda cosa piace, anche se tutti giusti, però o prima o poi ti soffi, ti rausetta e da poi non la puoi più mangiare. Che ci dici? Quando piace, lo curi tocca, così. Così è Bacchi. Ciao Luca, buonasera. Ehi, che aspettina. È proprio così. Vediamo un po' se c'è Marino. Marino doveva essere in radio. Marino! Marino deve essere sotto l'albero, zappetti, cazzo, a luce di faro, cazzo. Aveva la terremoto con questa palla. Ma stavo di voce che passi, Bacchi, lo trovo sempre. Sotto l'albero con la zappa in mano. Sono dritto, ce la mantieni. Però non è mobile la zappa, no? Forse è la zappa che mantiene da Eto, non è tu mantiene la zappa, no? Ah, tieto, Marino, ci sei? fuggito, fuggito, non nulla. Tole, se è la partita, Tole, non vedi nessuno, no. Dovete dormire. Aria bassa. Sento lui. Graziano, dormito, all'innananda sto facendo. Attento, buffo! Drummido, sì, grazie. Attenzione, Graziano. Graziano, Reggio Maria, cambio. Graziano? Ho l'attento, Graziano, cambio. Marino. Oh, Bacchino, ascolti. Sto usando quella là, sì, sto usando, quella la X30, messa, e sono giù, messa giù su un palazzo, un seppiedi di una colonnina. Va bene, è fortissimo. Comunque sta sparando, poi ti mando la foto. Hai capito dove sono? Sono giù proprio nella veranda di giù, sono messo su, sono sull'alta, vabbè, lei sarà un metro e mezzo, qui sulla colonnina sono... 2-3 metri in tutto l'altezza, là, appoggiato sui terrazzini in terrazzo. Quei sciugalini, Appoggiata così, Sciugalini è messo, poi ti mando la foto, ti mando. Guarda, i radiali, a occhio così, saranno sui 80-91, e 3 radiali, sa. Capito, lunghi sono, una gran plena, in pratica. Però ti porti quel rem appresso. È probabile perché sono giù, non lo so. Tu arrivi, con quale sei? Con la grande o con la piccolina? La piccolina sono. E fai, io ti ascolto benissimo, vedi? Cioè, il portatorino fuori solo, e va bene. Sembra che sei qua vicino a casa. Una bomba proprio arrivi. Sai che l'hai messa giù, se la pensi sul tetto, allora, sparo proprio. Chiaro che sparo al doppio, sei in terra, collegata lì, a faccia a terra l'hai messa. Esatto, sono più carini, sono proprio più carini, questo è la foto, va bene, già va bene, dai. Ma sai che provo la tua appoggiata qua giù adesso, un attimino, Bacchì. Provo, dai. Mi ascolti, Bacchì? Bacchisio? Sento Bacchisio. Dimmi, una bomba. Massa bisogna fare, un po' di massa, capito? No, io sono andato con la radio, stazione fissa. Guarda un po' come arrivo, che cambio apparato. Guarda un po'. Marino, mi ascolti? Attento, Marino. Non mi ascoltavi, quel REM, forse un chilo e 200 di quel REM. Cambia antenna, cambio. Se non c'è massa, può fare, va benissimo. Adesso zero. Si è abbassato, come mai? Cosa hai fatto? No, di segnale sei uguale, di radio. Quello piccolino? No, non c'è bene quello lì. Quello hanno 5 watt. Quel REM, poco fa eri pulito. Un pochino ce n'è, adesso è aumentato. Adesso hai rimodernato un po', ti sei rimediato poco. Però il QRM è forte, come fai da più poco? Forse è la zona disturbata lì giù. Ehi, dai, ce la sentiamo Marino. Vai dentro, prendi merito anche tu, non solo l'antenna, ma anche tu. Bacchisio? Presente. Ok, dai, ti ascolto. Un po' di QRM comunque ti ascolto, dai. QRM c'hai? Come? Cos'è? QRM hai? Leggero, comunque ti ascolto, dai Bacchi, già ti ascolto bene. Meglio di ieri, davanti a ieri già è. Ieri già è zero proprio, la modulazione è proprio solo QRM ieri. E oggi già si capisce, dai. No, questa radio dice sto uscendo basso. E non trovo il segreto per aumentarlo. Belle di vicino non ce l'hai, comunque la modulazione è bella chiara oggi, E bassa, così è. E bassa, però già si capisce, se la sollevi leggermente. Aspetta che cambio apparato per vedere se migliora. Esatto, non c'è nessuno ancora, no? Perché qualcuno vuoi? Arrivi così, sto vicino, buonasera. Ero giù a San Giovanni, al campo. Ma sei giù al campo o sei già a casa tua? Allora sei al campo? No, ero al campo sino alle 6:30. Adesso l'ho accompagnata a casa sua e sono venuta a casa. Finita, guarda che c'è Bacchisio, va tutto. Sì, già l'ho ascoltata Bacchisio. E allora c'è Bacchisio? Sì, ho Bacchisio. Deve essere che sta cambiando apparato. Beh, ma tutto, buonasera. Vuoi radiare, quanto sono lunghi? Buonasera signor Gian Maria. E allora, mica c'è Marino? Mi sembra che non lo sento a Marino, Vediamo un po', avanti Maria, mi senti? Sì, signor Gian Maria, io lo ascolto molto disturbato, è a livello QRM. Non arriva qua, Marino non arriva qua, Mi ascolta, signor Tuve, io non lo ascolto, Proprio. Tore, buonasera. A chi? Sì, Gian Maria, mi senti? Adesso sei una bomba, cazzo, adesso va bene, Bacchi. Sei una cannonata adesso. Cannonata perché ho messo il portatile. Ah, ecco. Va bene, cazzo, adesso si affonda scala, poi la radio è buonissima. Bella forte, che è un bombò. Messa sotto accento, Gian Maria, tutta la notte sotto accento era questo baracchino qua, per quello è. Vediamo Marino, Marino. Marino non mi ascolta più. Marino. Marino, deve essere assentato Bacchi. Perché arrivava forte, a fondo scala. E beh, signor Tò, come ve la va? E allora, sono salito poco fa dal campo. Ero giù a San Giovanni e sta accompagnando a mio nipote. E sono salito poco fa. Ma piado, ero freddo. Ah, già sto un po' gare dove. Sì, era freddo, era muoio dai. Ma la radio non te l'hai portata, la radio appresso? Sì, il portatile ma non l'ho adoperato per niente perché ero lontano dalla macchina. Ah, ecco, non è in macchina. Benissimo allora. Avanti, Gian Marì. Anch'io ne ho fatto una piccolina stasera, sto provando quella lì, bene fatto. Sì, ha voglia. Vedi un po', ho tagliato un pezzo, così, messo il radialino, proprio a occhio, messo una stazionaria, uno di stazionarie. Sì, meglio così, almeno ti ha fatto malando per la macchina o per casa? Oh, me l'ho attaccata qua sul mobile, gatta. Il mobile sta a fianco, l'ho attaccata di qua, dentro casa, gatta. Ma evidentemente va bene, gatta, uno di stazionare, a occhio così. Andave, allora vedi che già andave. A chi? E a te cosa ti sembra? Mi sembra che sei sotto casa. Mi sembra che sei sotto casa qua. Una bomba, E vedi, certa volta, gatta, ti metti in impegno proprio non riesci. Ah, vai, usimi, ma tu a pent'anni, mi... Sembra fatta apposta, gatta, tre maginese, uno è stazionario. Gatta, e lo stilo sa quant'è? 39 centimetri, 39, e 14 di radialino. Ho preso un piede femmina, un barilotto maschio e maschio, e mi ha attaccato il filo di un bombò. Mi sa, cosa vuol dire? Certe volte... ti metti in impegno non ci dici, per così per passare l'ora è andata una bomba, benissimo. No, quella di Marino non sono riuscita a portarla giù. Il minimo che ti dava 2,5, sono riuscito a arrivare a 1,90, 1,80, poi non sono più riuscito. A 2,5 si è bloccata. E l'altra l'avevo fatto, quella che c'era prima. L'ho fatta, il capo era, allora, il pezzo di capo era 50 centimetri e il filo era da 2 era sì, o da 1, no, da 2 millimetri, sì. Ho saldato il radialino. Mi ho messo un pezzo di cose di in alluminio, stecche in alluminio, attaccate contro la vite. Va bene, va bene, cazzo, capito? Certe volte vedi nemmeno te l'immagine e capi, c'è direttamente attaccato proprio così. Giunghe, nemmeno giunghe è andato. Andata bene, è andata bene. Vediamo se Marino è rientrato. Marino? Marino, ma se sotto là e buona zappa in mano. Era qua poco fa, gli ho detto aspetta che cambia palato, poi è sparito. Tore, tu lo senti? Marino, attenzione Marino. E sono al telefono, Tore, il telefono, dai. Il tuo è buffetto, cari. Dai, sono al telefono. Marino, ok, Marino. Il telefono, dai. Ma chi è al telefono, Marino? Ah, il telefono, per quello, e non risponde. Capito. E oggi sono Graziano, non si è sentito. Deve essere quelle da bagno, deve essere fare bene gonfi. Chi si faccia appena moglie un bacchino, va sì. Allora entra proprio appena moglie, va sì. E con i caramelli ogni tanto gli ne mangia una. Sì, ho preso il cioccolato nero. Sei papà da moglie il suo Cristiano che. Ma domani non si rifà, si ripete molti muti. Adesso lì c'è papà moglie. Cosa aumentano il volume? A chi si intrusciano? Sette. Era mandato un messaggio, allora dice che accendeva, Luca l'ha mandato un messaggio, però non si è sentito, evidentemente. Non può, dai, se no sarebbe entrato. Penso io, ho notato. Infatti, è così. Sei passato di radio. Dove sei tu adesso, tu? Eh? Dove stai proprio, a casa? Sì, a casa sono. Ah. Certo, a fondo scala proprio, ma chi? Io. E bisogna che trovi il segreto, lo metto a posto quell'altro. Va bene, va bene. Quale stai usando tu? Quello grande. Quella è una cannonata, eh. Oh, sei te, sa ma chi ce n'è uno, mi? Metto la scatola ancora, uno di quelli lì. Oh, non spendo più quattrini, fate conto, me ne ha offerto uno mio cugino. Mi aveva offerto lo mio cugino del coso del Kevund di Bibanda. Gli ho detto tienitelo conto, gliel'ha regalato 70 euro ne voleva. Ma di quella doppia ricezione? Io doppia ricezione. E allora va bene, cazzo. Allora va bene, ma questo è nuovo, io parlo nuovo, è dentro la scatola ancora, Sì, ma no, non mi interessano quelle lì, ti ho detto, ripeto, per il mio cugino che lui ci traffuga su questa roba qui, con la diamatore. Ma tu dice, se lo vuoi mi mandi 70 euro e te lo sto portando via, detto, fa una cosa, tienitelo lì, non me ne rega nulla di nulla, okay. Se quelli di quelli lì, allora va bene, allora come prezzo abbastanza buono, cazzo. Di solito quelli lì costano, da due in più in poi, Così è to. Ma chi sei un Kevdo già è buono. È potente e buro. Meno sarà 20 watt. Lo so, infatti, l'ho chiesto, ma mi faccio più tardi il telefono a vedere un po'. Quando fatti vatti ha. E siccome questo c'ha la mania di comprare sempre, e questo era quello che usava in macchina lui, l'ho usato per un po' di tempo, poi è uscito un altro nuovo, più moderno, e si è comprato quello lì, e questo se lo sta svendendo, regalandolo sta. Oh, a me però quel prezzo l'ha fatto, Certo, se telefono un altro non li fa quel prezzo lì. Ah, io non l'avevo abbigliato, Vacchi. Ma non c'è troppo di roba mi dai i piedi, chi si pure io? Ma che sei diverso da tutti quanti gli altri? Quello sì. Quello sì, è un apparato di marca, di Bavaria. Lui ha cambiato perché, ripeto, c'è la mania di comprare sempre roba nuova, nuove creazioni. Lui l'ha visto e si è comprato per la macchina. magari non lo uso, fra un po' mi dice te lo compri. Si è fatto così, si compareggia sempre, vuol dire che nadina. Tu devi pensare, ultimamente per Natale si è regalato la stazione nuova, ha speso poco, ha comprato tutto, 10.000 euro, ci ha buttato in apparati così. E l'avevo comprato l'anno scorso con la linea Kibon, adesso mi ha detto che è una linea, non so che cosa, non mi ricordo che marca mi ha detto. E ha speso in tutto 10.000 euro, tua moglie ti si butta fuori casa. Sei appassionato un bel, e poi sei a radioamatore, devi stare sempre giambendi. I soldi ci sono, to. Così è. Ogni tanto bisogna ciambare parecchi. Bello Gio Marì. C'è roba nuova, sì, ma roba già usata, io non l'ho preso mai roba usata così. O nuovo niente, perlomeno io so fatto così, o nuovo niente. Quello che stavo là, che sono andato il 3 dicembre, non l'ho usato niente. È stata messa sulla frequenza, provato, va bene, è messo dentro la scatola, ed è sempre fermo dentro la scatola, ecco perché, non ne faccio niente, infatti. Così che se trovo la corrente glielo do, anche se ci perdo mi interessa, capito? Però è un peccato perché nuovo è nuovo. Purtroppo, non lo so. Vabbè. Allora, siamo Bacchi, tutto a posto, così. Quindi l'antenna di Marino? No, si è sentito, è sparito, dice che era al telefono, vediamo se ha finito. Marino? Impegnatissimo. Sì, sono al telefono, ragazzi, avvocato, che signorina. Non lo so. To, cosa hai combinato oggi? Stamattina come arrivavo da campagna, to? A me mi arrivi a 7-8. Signor Bacchi, ma mi arrivi a 7-8, ma è con l'antennino di cosa stavo andando? No? Vita Tor, il telefono, devo rispondere. Sì, al telefono? Sì, al telefono. Che è il rumore? È un rumore della cosa, vai? Dell'apparato. Ogni tanto ne esce uno. Andare. Giorgio Marì. Dimmi to, eccoci qua. Catta bubu. Catta, tu dica là, diciamo, a piatto, voi assieme a te, non so che hai pegato un telefono, che hai fatto. Ma chi c'è sempre una fiore di sì, lo chef? Non lo so, io, boh. Ma chi? Ma chi se pensi di va? No, deve essere al telefono. Al telefono, va bene, ragazzi. Certo, va bene. Adesso, aspetta che provo un'altra... L'altro antennino che abbiamo fatto prima, to, a vedere come esce. Se è migliore questo oppure quell'altro di prima. Qua mi si a fondo scala, E questa è quella di prima, to. È lo stesso come poco fa. Lo stesso segnale c'hanno. E questa ne ha una, è 1.3 di stazionari, La devo regolare ancora. Ma io riesco a parlare almeno a fila 1, appena che mi aggiugano di Bocumano, piano piano, e me la regolo, devo riuscire a farla 1-1 almeno, come quell'altra che ho fatto ieri, capito? Vanno benissimo. Andate allora. Allora già vanno benissimo. Ma abbassare un coso, abbassare un tempo. Magazzino, senti, già pugliesi, e già giù fatta, e andate, dai, però chi c'è che abbia fatto prima? Ma andate pure qui, vai. E se andate così, e abbia lasciato così. Okay. Vabbè, tante macchine io non le mongolo, assolutamente, però, in casa, manco... non so con questa cosa in mano, capito? È già andato così, faccio lì alla mensola, faccio un bucchetto, faccio poi con la pizza, faccio via sulla lì così, i cecchi d'alluminio, lunga 30 centimetri, e la già attaccata ai libri, ecco, alla mensola. Così che è attaccato fino alla fine della Ianna, là, alla testa della porta. Tole, ascolta, c'è un marino adesso. Ah? Cos'è Bacchi? Fino adesso che stavo cambiando antenna, adesso invece l'ascoltavi. Si fa vedaggi? Fettore Marino! A che ti sei l'aia di osso? Marino! A me Gian Maria non ascolta, a te ascolta. A me mi ascolta, a te no. A me no, poco fa abbiamo parlato per un po', si è spostato, boh, caduto, non lo sento più, e lui non sente a me. Da me non arriva, da me non arriva Marino. A chi zio? Adesso stiamo cambiando antenna, vediamo un po'. Marino! Che c'è Marino? Ascolti, sì. Io sì, ma gli altri non lo so. Adesso sto usando l'antennino che mi ha fatto Battiglio stamattina, che ho tirato. E sono fuori in terra, proprio sulle fuori. Dove c'è la macchina adesso? Ora l'ho appoggiato in terra adesso, dai. E come si chiama? È forte, sì. A me arrivi 9. Già va bene, vediamo Battiglio se mi ascolta. Boccarsi mi ha ascoltato abbastanza bene, dai. Battiglio, lo ascolti a Marino? Oh, nulla, buccia di gioca, non lo sento per nulla. A me mi arrivi Santiago 9, mi arrivi, per la Radio Vona. Gian Maria, a te che arriva Marino? No, io sono con questo antenino che ho fatto io dentro casa, la parte di dietro, capito? Che non arriva da me, forse per quello, capito? Marino, Bacchisio e Gian Maria ti sentono, solo io. Grazie Bacchisio, ascoltate Bacchisio. Aspetta che mi sposto 2 minuti, mi sposto leggermente, dai. Hai compreso Bacchi? Oh. E che antenna sto usando adesso? L'antenna che gli hai fatto tu, ce l'aveva per terra. Poco fa arrivava benissimo, adesso zero, riporto zero. Ha cambiato zona deve essere. Allora, se la deve mettere con una staffa, ha beccata qualche posta, qualche ringhiera. Ho già attaccato, guarda adesso Tore come ti arrivo. Beh, sempre lo stesso, mi arrivi bene, Santiago 9. A Bacchisio non lo so se ti ascolta adesso. Bacchi, lo ascolti? Sì, adesso l'ho ascoltato, avanti Marino. Io negativo, Bacchisio, l'ascolto sono proprio a livello QRM, l'ascolto Bacchisio, eh. A livello QRM, tu arrivi a fondo scala qui a casa, ma Bacchisio negativo. Io ti sento in mezzo al QRM anche a te, a momenti sei limpido. Sì, vedo, ascolto il segnale che arriva, ma la modulazione molto bassa, non ti ascolto. Strano questa frequenza, a 100 metri uno dall'altro non si riesce a capire, avanti tu. Dipende da come ti siamo buchi, ecco cosa è, dipende da come siamo messi, bisogna avere anche... Lineetta in più. E questo cos'è Tore? È una frequenza strana, basta che ti sposti leggermente. Come adesso vedi, da dove adesso arriva. Ci sposta e non ci arriva più. Hai capito, Mari? Ma cosa ha detto? Ti sei spostato e adesso non ti ascolta. No. Ma mi si arriva in attratti, Questo passaggio ti ho ascoltato io limpido. Io lo stavo ascoltando a tratti. E adesso vado in questo passaggio? Adesso sì, Santiago 4 e la radio, insomma. Che mi sono spostato adesso, ho capito. Ma è una frequenza strana, basta che ti sposti leggermente e proprio ti cava il segnale, capito? Devi attaccare l'antenna a qualche paletto che sia un po' in alto. Ok, vabbè, calcola che io sono in basso adesso, è appoggiato, come ti posso dire, sarà 1 metro a terra, dunque non si può, anche se arriva così già va bene, dai, ho pronto l'antenna che è dopo. Ah sì, Radio 5 No, la Santiago 5 è la radio, insomma. Già va bene, dai. Ok, dottore, ma nella Odense qua c'è un'umidità pazzesca, dai. Sì, anda bene, anda bene. Signor Battisio. Sì, ciao Maria, salutissimi, saluto ancora, a domani. Ci sentiamo domani allora, chiudi tutto, avanti Tore, anzi no, Gian Maria, vai. Chi sei in questo passaggio? Dai, ma sì, io chiudo, dai. Ci siamo domani, se Dio vuole. E per cui ne approfitto. Grazie a Ticco, a Chiacrata, anche se è breve, fa sempre piacere, dai. Buon pubblico, saluto in casa, ma chi? Altrettanto a Tore, sto. Riprendi tu e dopo chiudo, dai. Ok, ciao Gianmarino, ci sentiamo alle prossime. Riprendi Bacchi. Con lui il passaggio che hai fatto. Avanti Bacchi. Ehi, ehi, Amarini, saluto Gianmaria che stai andando in quei reti. Ciao Gianmarino, salutissimi, ricambiato tutto al 100%. A domani che coincide. Avanti Marino. Ok, ciao Gianmarino, ben sentito, ci siamo domani, se coincide, sono tu in casa. Bacchi, il vostro passaggio ti ha ascoltato, pulito, pulito. E adesso in questo passaggio ti ho ascoltato pulito pulito anche io. Appoggiato, ma io non so, è strano. E sono sempre nello stesso punto, Dove sono spostato? Ho appoggiato la vita sul dove c'è il gazebo. Sempre in terra, No, ormai sono altissimo da terra, capito? No, adesso sei arrivato bene. Non è così, Tore. No, a me mi arrivi a tratti, mi arrivi. No, a me arriva pulito pulito, come stai arrivando tu. Ti dirò, il radio è leggermente più forte. Sì, basta che si può, sia un po' gareddo. Io lo sento a tratti e a te arriva pulito. E è una frequenza strana, chissà. Sì, ma l'antenna ormai è ferma, capito? L'antenna è ferma. L'antenna è ferma sul gazebo, diciamo, sul piantare del gazebo, capito? Sì, ma a volte, secondo me, basta che lo sposti di un pochettino, arrivi il trano. Andava e andava, adesso ti ho ascoltato benissimo. È una strana. Va bene, comunque va benissimo con l'antenna, ma chi va abbastanza bene, dai. Tu pensi che sono un metro a terra, sono anche, e sono fuori a casa, sono dai, campagna diciamo. Va benissimo, va chi, ok. Me ne vado all'interno e qua c'è troppo fresco, sta scendendo l'umidità, vi sto ghiacciando. Ehi, Maria, allora dai, ci sentiamo domani. Buono quelli di saluto in casa, a domani, avanti Tore. Adesso sì, Bacchi, andrà più bene la modulazione, pulita se non è che puoi avere. Ok, ciao Bacchi, ben sentito, saluto a casa, ciao anche a Tore, per tutti, per soltanto, scusati per me, dai. Sì, ok, ciao Mari, ci sentiamo alle prossime, dai. Ok, ciao, riprendi Bacchi. Hai visto Tore? Marino, fatti mandare una foto. Marino, manda la foto a Tore di quell'antenna. Quella che ho preso io. No, io l'ho già mandata la foto, Come sono se guardiare? Sono guardiare da 90. Guardiare, sono se guardiare da 90. Sono mandata solo. Guarda, se non sta che ce l'hai. Manda la Tore, quella dell'antennino piccolo che hai trovato stamattina. Ok, dai, adesso che ho mandato solo quella, gli ho mandato. Adesso le faccio l'antennino piccolo di quella stamattina, dai. Così Tore la guarda e mi dice cosa ne penso. La bomba è bomba. Sì, andava, andava, dai, vabbè. Ah, di quell'altra me l'avevi mandata, di quella con i radiali. Quella lì me l'avevi mandata, l'avevo già vista. È come quella che ho io qua. Andava. Quella sede cosa da 30 centimetri lo stilo. Ah, di meno, lo stile da 25, non come genere. No, gli ho dato una stamattina, con la calamita l'ho fatta a Tore. Non si può toccare, calamitata. Adesso mi stai, ti mando la foto, la vedi? Sì, andava bene. Chi era quello che è uscito a scariche? Ehi, Mari, già ti sento io, è Bacchisio che ti sta sopramodulando. Sì, Tore. No, quella me l'avevi fatta già vedere, quella che ti ha fatto stamattina, mi sta dicendo. Dov'è? Sì, quella là l'ho già vista, quell'altra. Andava. Sì, l'avevo già vista quella. L'avevi fatta vedere. Quella che ti ha fatto Bacchisio stamattina, mi sta dicendo lui. L'ho preso, signor Bacchi. Adesso non arriva. No, poco fa arrivava, adesso zero, neanche la luce si accende. Chi ve la via in mano, ve la via. pizzeria. E cosa vuoi fare? La frequenza è quella che è? Sì, è una frequenza strana, chissà. Poi adesso desidero meglio la 27. La 27 arriva in tutti i rughi. Infatti. Dove sono? Questa qui, ieri, però c'ha due 5, 2 scene stazionarie c'ha. E non cala, L'ho fatta calare un po' a 1,95, poi è salita e non sono riuscito più a portarla giù. Sì, ok, Mari. Già l'ho sentito il coso, dopo la guardo. Cos'è, Mari? A me arrivi 3 di segnale, è radio, ha detto che ha intenditi. La macchina quella lì, anda bene, sarà come te la mia la calamita. Ma che sia in alto un po' la ringhiera, anche se no non arrivi bene, hai compreso? Arrivi da una parte ma non arrivi dall'altra. Vero, Bacchi? Sì, adesso io non ascolto. Io nulla, 0 riporto 0. Anche a Trento, Josue. Beh, a cosa? Su terra è il tole. Tutto bagnissimo, a me mi arrivi 3, mi arrivi, disegnare. E del radio, insomma, così. Con radio nulla, segnale nulla, sono sentito la ruzzi, boh. Sì, anda, beh, anda. Già va benissimo. Io me la giovata e la uso con tutte e due, o con la 27 o col PMR. Buono, buono. Io ho la PMR 27. Uno stilo di uno, uno stilo dell'altro. E dunque va bene, sia una cosa sia l'altra. Cosa volete di più? Un Lucano? Un Lucano, adesso stai arrivando, va. Ma cosa hai fatto? A piedi a bagno ti sei messo? Esattamente, sono sul tavolino sempre da laggiù. Sul tavolino appoggiato adesso. A te ti ascolto, ma ti ascolto come sole. Una bella motorista è pulita. Ti sto dicendo dove ti sposti qua, è pazzesco. Segnalo, faccio il segno, la zona, segnatela. Capito, hai detto, adesso ascolta bene a tutti e due. Ma mi arrivano i nuovi, mi arrivano dei segnali. Radio buona. Allora mi arrivi a te dei segnali e la radio così. E adesso ho la comune da strada, mi facciamo dei segni, so. Mi faccio delle X almeno, dove sono la X posso modulare tranquillo, dai. Sono sempre giù, Bacchi, sono nei gradini, nelle scale, c'è un tavolino tondo. E l'appoggiata sul tavolino tondo, l'appoggiata, avanti. Ma ecco, per quello c'hai il tavolino che fa massa, è buonissimo allora. No, stai arrivando benissimo, che caspita. Poco fa nulla, ma adesso di lusso. Anche tu qua stai sparando, tu arrivi come sole, abbastanza bene, bella pulita. Hai visto, Bacchi? Che cosa sembra riuscire di avere? Basta una fesseria, tu hai visto, è tutto sistemato. Sì, andavi, andà. E così è. Allora, il tavolino, mamma lì, portatela presso sempre. Ho già pensato, guarda. Ho fatto una X, questo lasciatelo qua, un toccatelo. Ci portatelo su, il tavolino, te lo metto vicino al divano. Guarda, su, secondo, non l'ho provato su, ma perché stasera stavo facendo una cosa con il genio, con la voce che stavo dicendo. Non ho provato, ma domani se sono venuto poi se la voglio provare su, solo se lo sei. Che dentro casa a ferro non c'è niente, ferro. L'ho provato e forse è il terrazzino. L'attacco invece la postura della caldaia, voglio vedere, ma guardate quando uscire abbastanza bene su in alto, tutto qui, avanti un po'. Sì, meglio così, ti conviene lasciarla in chivi allora, ti conviene, se arrivi in voce da in chivi, sta cosa ne tutti. Esatto. Va bene signori, continuate, io mi scendo giù da al calduccio, che qui si diventa lunghiacciolo, dai. Riprendito e un po' di ascolto giù, dai. Sì, ok, dai, ci sentiamo Mari, alle prossime. Anda, ve. Ti prendi Bacchi. Ehi, ciao Marino, salutissimi, buonanotte, salute Correa, a domani. Bene, anche io ne approfitto del micro, Tore, passare in QRT, causa merendero. Ok, ciao Tore, salutissimi, saluta la signora, a domani se tutto coincide. Ciao. Ok, ciao Bacchi, ci sentiamo alle prossime. Guarda adesso, se mi ascolti. Aspetta. Guarda un pochino. Hola. Guarda un pochino. Mi senti? Guarda, 1, 2, 3, prova.